mentre parlava la nostra amica, io pensavo qual è una mia poesia che è una, ha un buon equilibrio fra suono e immagine. E ho pensato che è la terza del trittico figurativo, non per nulla figurativo, si intitola Leda col cigno, sopra una sculturina della Mannati che si trova al Bargello. Quindi il titolo dice tutto. Voi sapete che cioè, forse chi è andato al Bargello ha visto questa piccola statua di Ammannati che raffigura Leda col cigno. È una statua fatta su cartone di Michelangelo. E questa poesia è nata da una grande emozione che questa statua mi dava. Io ho lavorato come guardarobiera al Bargello per alcuni mesi invernali, un freddo cane, e vedere questi due che se la spassavano in questa teca mi sembrava che fosse molto caldo. E allora mi comprai la cartolina e mi misi la cartolina sopra la scrivania e gli facevo il verso a Michelangelo quando parlava con Davide, gli diceva parla, parla. Io dicevo alla cartolina parla, parla. Quindi è un'immagine che diventa suono. Volevo mettere in parole questo rapporto sessuale. Fa che io sia fecondata così in tutte le mie membra, in su più su fin dentro il serpe di treccia di rinni che mi cinge vittoriosa la testa, fa che sia festa, in fin dentro le borse agli occhi che voglia rigonfia come le viscole sacche che io vidi all'ovipara Leda. Quella notte sognò d'avere un cigno fra le cosce. Essi in arca potente le reni assì, dischiude appena le cosce, e in arcuata lo accavalla Leda, par maschia, eppure vezzosa rapida lo invischia e concepisce di scoscendere di fianco, serrando l'ali della scigna, con una muscola che gli blocca lo starnazzo, mentre lui vorrebbe spirare, e invece si fa mortale in acuto e soffoca stantuffando, allora le pianta le palmate sotto le natiche contratte leggermente sollevate, così che lei ritraendosi non molli la stretta, anzi, mentre regrede, si impianta le ianche col piede destro e col manco lo avvince all'estremità superne che esprimacciando lui rapido flette. Ora l'ali sono in posa di spicco, ma non il collo, no, quello lo arrovescia mollemente e fermo fermo lui vola a risucchio in lei vorticando soltanto quel grande uccello blanco che in alto sospinge duali quali alettoni piegati all'indietro in ragione di vortice aereo perché lei, vuoto d'aria, l'accavalli accogliendo. La solletica lui morsicchiandole le labbra e lei la punta della lingua dovette mostrargli la sollecita lui coi suoi dentini aguzzi e trasparenti qual lische o la zicca beccate rapide arrovesciando in avanti lunghissimo blanco suo collo e flessuoso e gluano in due glua adesso lui deglutendo il rivolo di lei saliva che veniva. Per un'ultima volta la schiena di lei si flesse e lui la spalma, risucchiandoli sua discendenza Bovo, Elena e Polluce. Tresca di Zeus beato che l'incinse orgogliosa e mortale, a lei da Garru la madre il ventre certo gorgogliava beata. Si scambiarono due rapidi sorrisi di maniera e l'aere fu queta. Quello di Leda duro sombreggiò di nausea pallidendo, aquila quello ridivenne in un battibaleno fiammeggiando. Per poco perdurò vago sentore di sedano e di pesce, sorrideva. Lei da sola le riverse mammelle blanche di madrepora. Piume umide, gallate, grassi resti del trescone, sulla riva arenosa dove lei granulò riversa un poco ancora. E dovettero certo indurirle, granulose, due pere marme di madrepora. A noi di quel colossalmente divertito godimento solo si presta in picciola teca una qualche allegra vestigia, ma fra drappi mal riusciti ed in minuscolo in minugia, che col madreperlaceo pulviscolo di marmo o pseudo Michelangelo, bene imitasti la maniera del movimento sensuale ombreggiando.